Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti, da Olga e Frey. Ben ritrovati con Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. L'appuntamento di questa settimana è un viaggio un po' insolito, che ha il sapore del tè bevuto alle 5 del pomeriggio, dell'odore di bosco che si può sentire durante una caccia alla volpe, o il rumore dei passi affrettati all'interno dei corridoi pieni di ritratti di antenati. No, non, veramente non siamo impazziti, Frey, ma vogliamo portarvi in questo viaggio, come ho detto già, un po' insolito, verso i lidi della Gran Bretagna, o meglio, verso l'Inghilterra. Non è però quella della working class, l'Inghilterra che noi, a cui noi facciamo riferimento, a cui noi normalmente guardiamo, ma è quella che non c'è più, fortunatamente aggiungeremmo noi. La terra dell'aristocrazia dominante, con la sua stanca ritualità e il suo dominio assoluto nei confronti del resto della società britannica. Attenzione, non è che Van Loon questa settimana non vi parli, come al solito, di lavoratori e lavoratrici, di uomini e donne che si ribellano. Ci arriveremo con un po' più calma, dopo avervi raccontato un po' della vita di baronesse e di lord e delle loro abitudini nel momento della loro fine. Per accompagnare questa puntata siamo andati a pescare un disco totalmente British, un disco inglese in particolare, disco freschissimo, ci ascoltiamo gli Shames, Songs of Praise. Concrete. La curiosità di compiere questo viaggio nell'Inghilterra di un secolo fa per addentrarci nel mondo della nobiltà anglosassone ci è venuta con la lettura di un libro un po' particolare che è uscito nella coda del 2017. L'assassinio di Florence Nightingale Shore, edito da Neri Pozza, firma di Jessica Fellows. Non suona già un campanello a sentire quel cognome Fellows? Non sarà per caso parente di quel Julian Fellows, il cui nome è legato alla fortunata serie Downton Abbey, con cui ha vinto diversi Emmy Awards, e agli Oscar del 2002 con il film Gosford Park? Esattamente. Jessica Fellows, giornalista esperta di residenze di campagna, è la nipote di quel Fellows lì, e il suo libro è tutto inserito all'interno dell'universo di fiction inventato dallo zio Julian, pur con le sue note di originalità, sia chiaro, non è un caso di nepotismo. L'assassinio di Florence Nightingale Shore si dimostra per questo un giallo piuttosto originale. Ambientato fra il 1920 e il 1921, questo libro è il primo volume di una serie, I Delitti Mitford, Sei sorelle, una vita di misteri, che trova come protagonista le sorelle Mitford, per l'appunto, delle donne realmente esistite, queste sei rampolle di una nobile famiglia molto importante nelle alte sfere della società britannica, vengono utilizzate da Jessica Fellows per costruire delle detective story ambientate nell'Inghilterra post Grande Guerra. Quell'Inghilterra in cui c'era, come si diceva allora, un surplus di donne, essendo morte al fronte 1,5 milioni di giovani uomini in divisa. Quell'Inghilterra in cui le differenze sociali prodotte dalla storica ingombrante presenza dell'elite nobiliare di cui parlava Olga all'introduzione di puntata, iniziavano pian piano ad incrinarsi e a rendere i movimenti fra le classi se non facili quantomeno immaginabili. Ed è così che l'indagine su Florence Nightingale Shore, è l'ultima volta che faccio una puntata dedicata all'Inghilterra, infermiera al fronte di Francia, viene uccisa su un treno. E le indagini vengono condotte da Nancy Mitford, per l'appunto una delle sei sorelle, assieme a Louise Cannon, la bambinaia di casa Mitford. Se dovessimo prenderlo soltanto come un giallo, questo l'assassinio di Florence Nightingale Shore, non si sarebbe probabilmente trovato in cima ai nostri suggerimenti, visto che la trama solo nella seconda parte inizia veramente a trascinare il lettore. Ciò che però immerge nella lettura e che rapisce e che rende questo libro veramente prezioso è il contesto. Il primo romanzo di Jessica Fellows ci conduce in un percorso storico unico nell'Inghilterra dell'epoca. Si parte dai quartieri desolati di una Londra proletaria in cui le donne, per lo più lavandaie, condannate a subire la violenza dei propri familiari maschi, hanno come sogno quello di ottenere un contratto da domestica che almeno garantisce un salario o un letto caldo senza botte, come nel caso di Louisa Cannon, per arrivare poi alle sontuose ville della campagna inglese, dove giardini diventano scenario per ricevimenti da sogno, come quello dei 18 anni di Nancy Mitford, di cui leggiamo per l'appunto nella seconda parte del libro. Il giallo di Jessica Fellows, pur avendo delle caratteristiche specifiche nella definizione dei personaggi nel racconto dell'epoca, getta le proprie radici nel lavoro di ricostruzione, di riproposizione nella cultura dei massa dell'Inghilterra dei primi del Novecento, inaugurato dallo zio Julian Fellows. Downton Abbey e Gosford Park, di cui parleremo dopo un'altra canzone, sono dei prodotti filmici che hanno un doppio merito. Prima di tutto aver riabituato il pubblico alla proposta di serie e film della raffinata ricostruzione storica. Poi l'aver reso l'ambientazione storica un elemento di riflessione utile per il grande pubblico, che si è affezionato in maniera veramente inaspettata alle sorti di una classe sociale, quella dell'aristocrazia di cui vi parliamo all'interno di questo viaggio, tanto distante dal presente. Ma come e perché questo mondo di stanchi riti dell'aristocrazia inglese, di caccia alla volpe e di tè alle 5 del pomeriggio, è diventato così interessante? Partiamo ora da dove tutto è cominciato, da Gosford Park e dalla grande mente dietro questo percorso, Julian Fellows. Prima del successo di Gosford Park, Mr. Fellows, poi diventato Lord Fellows, era soltanto un simpatico attore, cui il pubblico inglese televisivo aveva familiarizzato dai tempi delle grandi serie in costume. Convinto sostenitore della monarchia e incuriosito dalla tradizione dell'aristocrazia, appunto, Julian Fellows emerse agli occhi del grande pubblico proprio con Gosford Park, il film di Robert Altman di cui firmò la sceneggiatura. Pur essendoci quasi 10 anni di distanza fra il film di Altman e la prima puntata di Downton Abbey, Gosford Park può essere visto quasi come una sorta di episodio pilota di quello che sarebbe stata la serie televisiva. Non a caso, uno dei personaggi più iconici del film, la baronessa Constance Trentham, interpretata da Maggie Smith, verrà poi traghettato nella serie nella figura cardine di Downton Abbey, Violet Crowley, la contessa madre di Grantham, padrona e figura autorevole di casa Crowley. Gosford Park può essere un classico esempio di giallo inglese tradizionale. Tanti indizi seminati nel corso del film, sospetti che sorgono su ogni personaggio e un poliziotto un po' sempliciotto alla prova del mistero, che ogni spettatore può superare facilmente. Anche in questo caso non è la trama ad essere il punto forte. Per quanto ben congegnato, non è il mistero ad affascinare e a prendere lo spettatore, ma è la sontuosa ricostruzione della vita dell'aristocrazia e il metodico lavoro della servitù per far funzionare la magione. È il 1932. I cani al guinzaglio sono pronti a stanare volpi. Gli uomini vestono pantaloni e giacca di tweed e i corni suonano. Poi alla sera, una veloce toiletta e pronti dopo la giornata all'aperto con dei lunghi abiti da sera per le donne e guanti bianchi con frache per gli uomini. Ad un certo punto, la quiete di questa simpatica scampagnata di nobili viene interrotto da un quanto mai classico omicidio. La morte di William McCordle, il capo famiglia a cui tutti guardano con un misto di ammirazione ed odio per il fatto che è lui a dover allargare i cordoni della borsa, porta alla luce tutta quella polvere che la servitù con fatica ha tentato di pulire. Gosford Park, questa villa della campagna inglese che fa da scenario alla vicenda con il suo dedalo di corridoi e di livelli, si anima di liturgie della vita della nobiltà inglese. Ciò che è veramente sorprendente è la vita e l'etichetta della servitù, e questo è l'aspetto veramente più interessante di questo film. La vita quindi di una servitù che esegue alla lettera i rituali previsti dall'etichetta. Gli affannati preparativi della colazione, i vestiti da stirare durante la notte per esaudire ogni piccolo desiderio fino allo stremo della stanchezza e arrivando poi addirittura a disporsi a tavola secondo l'importanza del titolo del proprio padrone. Quanto è caricatura di un mondo facile da scimmiottare come quello dell'aristocrazia possidente o quanto invece rappresentazione realistica e verosimile la visione di Gosford Park? Nell'organizzare la ricostruzione di quel mondo e dei suoi riti, Julian Fellow pensa che si, e citiamo le sue parole, narra in egual misura il mondo degli aristocratici e quello della servitù. Mentre nei romanzi o nei film del passato i servi non si vedevano, erano figure dello sfondo. Più tardi, in era politicamente corretta, i servi dovevano essere tutti buoni e i padroni cattivi. Gli uni e gli altri però sono persone normali, migliori o peggiori, a seconda delle circostanze. Best you've heard, and you can choose to hate my words, but do I? Siamo arrivati al piatto principale di questo terzetto di produzioni dedicato all'Inghilterra della famiglia Fellows, la serie televisiva Downton Abbey. È legittimo iniziare a porci qualcuna di quelle domande di cui avevamo parlato a inizio puntata. Come mai le produzioni inglesi e americane che stanno dietro Downton Abbey hanno investito così tanto in termini di ricostruzioni, soprattutto su una serie di ambientazione storica? Come mai una tematica come quella della fine dell'egemonia dell'aristocrazia inglese è stata capace di attrarre un così vasto pubblico di massa? È la giusta ricetta per trasmettere storia? Senza lasciarci andare ad analisi sociologiche dei mass media per le quali non siamo molto tagliati, noi ci concentriamo di più sugli aspetti di interesse storico. Infatti, al centro di questa produzione, come si può intuire da una delle frasi più ricorrenti del film, c'è un mondo che sta cambiando, rappresentato da una splendida dimora nobiliare, che è il cuore della serie, un mondo appunto fatto di antiche ritualità e di schemi ben precisi che sta neanche troppo pian piano volgendo al termine, portandosi con sé tutta una serie di figure tradizionali, appartenenti tanto all'aristocrazia quanto al mondo della servitù, che proprio nella classe sociale dei padroni trae la ragione di esistere. Entrando nel mondo di Downton Abbey, vediamo come quelle caratteristiche che abbiamo iniziato a individuare per gli altri prodotti a marchio Fellows, diciamo, quindi quelli firmati da Jessica e Julian Fellows, vengono in qualche modo esaltati, portati all'estremo. La ricostruzione dell'ambientazione, dell'atmosfera e dell'età di Re Edoardo prima e di Elisabetta poi sono perfette e conducono lo spettatore alla scoperta di questa sontuosa dimora nello Yorkshire dove risiede la dinastia dei Grantham, fatta di eredi, pretendente all'eredità, familiari acquisiti e domestici, distribuiti su due piani fisici, quello nobile e quello della servitù, ma anche simbolici in quanto rappresentanti di un ordine secolare a cui tutti si attengono fedelmente. L'autentica protagonista della serie è proprio questa enorme magione che iniziamo a scoprire mano a mano sin dalla sigla d'inizio nelle sue varie componenti. Per il suo mantenimento, i Grantham devono impegnarsi nel ricavare denaro, anche scendendo a compromessi fino a pochi anni prima inimmaginabili, come far entrare nel proprio clan dei borghesi. Se questa è davvero la fine, dobbiamo chiudere in grande stile e goderci la nostra splendida casa e le splendide persone con cui abbiamo vissuto. Questa per gli appassionati della serie non è che una citazione fra le tante che abbiamo disseminato in questa puntata. La dimora è metafora della stessa dinastia, che deve impegnarsi per non estinguersi in un'epoca di grandi cambiamenti. Il cambiamento, come dicevamo, è la parola chiave di questa serie. Un cambiamento, e qui vale la pena ripeterlo, che per la prima volta nella sua storia i conti sentono per davvero, essendosi sentiti al riparo dai primi segnali dell'avvento della società di massa. L'inizio di questa crisi viene segnato dal sopraggiungere della notizia dell'affondamento del Titanic, e qui siamo proprio nelle prime puntate della serie, su cui viaggiava un cugino del conte con suo figlio, eredi designati al patrimonio e al titolo nobiliare. Lo smarrimento è totale. Il parente maschio più prossimo, infatti, è un cugino di terzo grado, avvocato, figlio di un medico. È la prezzo di un dramma. La magione, il patrimonio e soprattutto il titolo non sarebbero stati ereditati da un lord, bensì da un gentleman. La necessità e l'inevitabilità del cambiamento sono avvertite per tutto l'arco della serie, che si snoda su un arco temporale che va per l'appunto dal 1912 fino al Natale del 1926. È l'epoca in cui storicamente si è chiusa la parabola discendente della grande aristocrazia inglese, che dalla grande depressione della fine del XIX secolo, con le ricchezze derivanti dai possedimenti terrieri, non era più in grado di sostenere le sempre più pesanti tasse di successione imposte dallo Stato e all'avanzare di una nuova classe sociale, quella dei gentlemen per l'appunto. Un'utile riflessione sul senso e sul valore di questa fase storica la possiamo prendere da Franco Moretti, lo storico della letteratura che nel 2017 ha pubblicato con Einaudi l'interessante saggio Il borghese, tra storia e letteratura. Nel corso della sua riflessione, Moretti inquadra quell'epoca, centro di queste numerose opere che è l'età vittoriana, in cui emerge questa nuova classe sociale, cioè i gentlemen, come amano definirsi i borghesi britannici. Si tratta di un'epoca di necessario compromesso al vertice della piramide sociale fra l'aristocrazia, ormai esangue, e la borghesia, cui però consegnava il proprio linguaggio di rappresentazioni e soprattutto le chiavi dell'egemonia culturale sulla società britannica. La borghesia, infatti, per quanto dotata di quei capitali che le garantivano di rilevare le vestigia della nobiltà, mancava di una cultura propria e di una propria autonomia, che non fosse quella degli affari. Il gentleman si pose a livello sociale e culturale al traino di quella nobiltà che lo considerava come un mero parvenu, imitandone i modi di essere e le ritualità. Per quanto abbia prodotto una nuova elite capace di durare al vertice del paese, il risultato di questa fusione non può che lasciare un diffuso senso di decadenza. Perché il racconto di questa trasformazione, di questa crisi dell'aristocrazia, ha avuto così tanto successo fra gli spettatori? L'approssimarsi della crisi di un mondo che nelle ricostruzioni dei saloni e delle grandi feste di palazzo non può che risultarci perfetto e incrollabile è stato percepito dal pubblico come una metafora, probabilmente questa è la nostra interpretazione, del nostro presente di crisi e di incertezze diffuse. Quell'ordine imposto dalla nobiltà e dai suoi riti sono talmente inflessibili da essere dotati di una luminosità di cui godono tanto i padroni quanto i servi. E il risultato è quasi rassicurante perché ci dà l'idea che ci sia qualcosa di bello, irraggiungibile, ma soprattutto stabile. Ciò che si apre alla fine della dinastia dei Grantham, gli anni 20, che sappiamo avrebbero portato alla guerra mondiale, non lo sono altrettanto. Come in fondo lo sono i nostri tempi, in cui percepiamo la crisi irrimediabile di un'epoca che si chiude lasciando lo spazio allo sciacallaggio del capitalismo più sfrenato e dell'assenza di ogni forma di rappresentazione per le fasce deboli della popolazione in cui riconoscersi. Il nostro viaggio nell'aristocrazia inglese raccontata da Jessica e Julian Fellows termina qui. Abbiamo analizzato l'assassinio di Florence Nightingale Shear, non lo ripeterò più, Gosforth Park di Robert Altman sceneggiato da Julian Fellows e la serie TV Downton Abbey sceneggiata sempre da Julian Fellows. Quello che potremmo aggiungere è che a testimoniare la vitalità dell'interesse del pubblico per questo tipo di narrazioni si potrebbero citare anche altri esempi che dimostrano il costante successo di questa atmosfera. Innanzitutto c'è un'altra serie televisiva, The Crown, dedicata alla vita e ai primi anni del regno della regina Elisabetta, che anche questa serie di notevole successo, e il romanzo del premio Nobel Kazuo Ishiguro, Quel che resta del giorno, in cui compare questa figura molto importante di questo maggiordomo che riflette per l'appunto sulle sorti della sua vita. Questa settimana però, Frey, abbiamo anche una bella novità, giusto? Esatto, una bellissima novità per cui vi possiamo dire tranquillamente che sul nostro sito internet potrete trovare ulteriori approfondimenti, oltre che il podcast della puntata, per approfondire questo argomento. È un risultato a cui guardiamo con una certa soddisfazione che abbiamo atteso per lungo tempo. Sì, esatto. Ripetiamolo, lo ripeteremo tutte le puntate all'infinito. Come sì, da adesso in poi lo ripeteremo ad ogni puntata: www.radiovallun.info. Esatto. E noi abbiamo finito. L'ultima cosa che possiamo dire è un ringraziare calorosamente Alfredo, esatto, della redazione, che ha portato avanti questo lavoro e che ha dato forma a quello che è stato un grosso sogno. Grazie Alfredo. Esatto, grazie Alf. Infatti è vero, Frey ha fatto bene a ricordarci, volevamo ringraziarti pubblicamente per lo sforzo che hai fatto per il sito e soprattutto per averci sopportato nella nostra incuranza in qualche modo. Esatto, la nostra assoluta disorganizzazione e mancanza di ordine. Esatto. Bene, andate a spulciare il sito e guardatelo, fateci sapere, c'è la nostra pagina Facebook, caso S-Balloon On Air, in cui potete scriverci, dirci quello che vi piace, quello che non vi piace, quello che ci manca, ma guardate il sito assolutamente, è una nostra più grande soddisfazione. Esatto, noi chiudiamo, Frey. Bene, buon proseguimento di giornata a tutte e tutti da Frey e Olga. Goodbye. Ciao.